perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buongiorno a tutti, ben trovati a Due di Denari con Deborah Rosciani e Mauro Meazza, che lasciamo riposare ancora oggi per l'ultima giornata. Mauro, guarda che qua ti rivolgiamo lunedì, perché stanno esplodendo tantissime questioni da affrontare anche con il tuo aiuto, per cui mi raccomando, ti aspettiamo. Allora, siccome io i colleghi del Sole 24 Ore li voglio sempre qua, stamattina ho di nuovo reinterpellato Nicola Borzi, Plus 24, il Sole 24 Ore. Buongiorno Deborah, buongiorno gli ascoltatori. Perché abbiamo una puntata su tanti temi importanti di cui Plus 24 si occupa spesso. Un breve sommario, per cui prendete carta e penna, appuntatevi gli argomenti di questa mattina, così potrete intervenire all'800 24 00 24 oppure al 349 23 386666 se ci volete scrivere messaggi o intervenire su WhatsApp. Allora, i temi quali sono? Non ci siamo dimenticati delle vittime delle vicende bancarie degli ultimi anni, e quando abbiamo novità da raccontare, eccoci pronti. Abbiamo intanto una novità freschissima di giornata riguardo a Monte dei Paschi, perché i titolari di azioni MPS che le hanno ricevute in cambio nei mesi scorsi delle obbligazioni subordinate che erano state azzerate con la banca oggetto dell'intervento dello Stato, adesso riceveranno una proposta di nuova conversione di nuove obbligazioni, non più subordinate ma garantite. Faremo il punto dunque della situazione su questa intricata vicenda, ma lo faremo anche per gli obbligazionisti delle banche risolte. E visto che ci siamo, parlando di banche, visto che apprendiamo che la tendenza all'aumento dei costi dei conti correnti sta riprendendo e di recente riguarda anche i conti online, riprendiamo anche questo argomento che fa sempre abbastanza indispettire i nostri ascoltatori. Ma siccome le novità di stamattina non ci mancano, Nicola ha portato anche una sentenza della Cassazione freschissima proprio di questa mattina, che riguarda i mutui usurari. Signori miei, qua non sappiamo da dove cominciare, cercheremo di fare un po' di ordine. Abbiamo anche tantissimi ospiti, peraltro per la felicità di Nicola segnalo che stamattina è circondato da donne, non solo fisicamente perché io sono qui, anche telefonicamente, perché tutti gli ospiti che abbiamo interpellato questa mattina sono delle donne. Adesso ve le presento, ma direi di partire. Giunti da tutta Italia, tornano in piazza Montecitorio a Roma i tanti risparmiatori danneggiati dai crack bancari degli ultimi due anni, insoddisfatti dai susseguenti. I piccoli azionisti truffati dalla Popolare di Vicenza e da Veneto Banca sono scesi in piazza a Montecitorio nella giornata nazionale, così è stata proclamata, del risparmio tradito. A mio marito l'hanno detto: vieni giù che sei un cliente di tanti anni, che c'è un regalo dalla Banca d'Italia. Ecco, il regalo è stato questo: 27.000 euro dalla sera alla mattina azzerati, va bene? Allora, vedremo in che modo si muoverà, ma intanto, circondata da perplessità e scetticismo, è formalmente partita l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche presieduta da Pier Ferdinando Casini, e ieri peraltro ha approvato il regolamento in base al quale organizzare il proprio lavoro. Due giorni fa il presidente Casini, insieme ai vicepresidenti di questa commissione, Brunetta e Marino, hanno ricevuto in Senato, in concomitanza con la manifestazione organizzata in piazza Montecitorio, di cui abbiamo appena sentito qualche brano tratto da qualche telegiornale, i rappresentanti di alcune associazioni di risparmiatori e i rappresentanti del comitato vittime del salvabanche. Parliamo, lo ricorderete, in particolare dei risparmiatori vittime delle quattro banche che abbiamo ribattezzato risolte, cioè oggetto di un provvedimento di risoluzione, un fallimento controllato, un bail-in che ha anticipato i tempi, ed erano, lo ricorderete, Banca Marche, Banca Etruria, Cari Chieti e Cari Ferrara, risolte nel novembre del 2015. Una risoluzione, come ricordava tristemente questa signora intervistata, che ha azzerato in una notte il valore di milioni di obbligazioni subordinate in mano ad oltre 12.000 risparmiatori, che hanno vissuto un'estate di passioni in attesa di capire come poter rientrare in qualche maniera nella piena titolarità del denaro loro perso, perché poi sono state avviate, come sapete, tante iniziative di risarcimento, ristoro. I tempi per accedere alle procedure di legge che consentono il ristoro parziale dei danni subiti nei propri investimenti obbligazionari stringono. Anche centinaia di migliaia di azionisti coinvolti in questi dissesti bancari stanno organizzandosi per chiedere il ristoro, loro hanno difficoltà in più naturalmente, quindi questo intanto è il nostro tema di partenza. Letizia Giorgianni, presidente del Comitato Vittime Salvabanche, ben ritrovata, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno. Cosa avete chiesto a Casini due giorni fa? Come mai la manifestazione di Roma? Abbiamo fatto una manifestazione a Roma per la prima volta insieme agli amici risparmiatori veneti per, come dire, riconfermare il nostro gemellaggio, nel senso che siamo tutti risparmiatori in qualche maniera traditi da banche e governo, e per la prima volta siamo scesi in piazza insieme. E poi serviva anche a noi delle quattro banche per far capire che il nostro problema ancora non è risolto, perché magari essendo più in là nel tempo e essendo poi accaduti come noi abbiamo sempre detto e immaginato insomma altri disastri bancari, si tende a dimenticare la posizione delle quattro banche, e invece, se vorrete, dopo vi farò il punto della situazione. A Casini parte questa commissione d'inchiesta, volevamo appunto incontrarlo per capire veramente quali sono i margini, quanta come dire, serietà possiamo aspettarci da questa commissione d'inchiesta a fine legislatura, lo sappiamo bene, e per giunta con un presidente che all'inizio a noi ha destato sicuramente notevoli perplessità, anche poi per la novità che appunto le domande che farà la commissione verranno tutte filtrate da lui, che deciderà a sua discrezione, quale porre ai test e quali no. Nicola, grazie. Letizia, allora fermati lì. Intanto segnalo ai nostri ascoltatori che questa mattina abbiamo in collegamento telefonico anche l'avvocato Letizia Vescovini di Modena. Buongiorno avvocato, ben trovata. Buongiorno, bentrovati a voi. Che ha seguito molto dettagliatamente, dando anche la consulenza tecnica Plus 24 del Sole 24 Ore appunto su questi casi, ha seguito molto attentamente i casi delle banche risolte, ma è stata lei che ci ha segnalato questa mattina la questione della sentenza della Cassazione sui mutui usurari, adesso ne parleremo. Nicola, ma con tutto questo, questa agenda nutrita che ho portato questa mattina, da dove vuoi cominciare? Dalla manifestazione di Roma e gli obbligazionisti delle quattro banche risolte, o spieghiamo cosa è successo nelle ultime ore per Monte Paschi, perché qua non si finisce mai di descrivere le novità. Da dove iniziamo? Ma io inizierei dal conto totale del dissesto di queste banche per il sistema paese, che ha superato i 60 miliardi di euro, tra risparmi dei privati che sono andati distrutti, intervento del settore pubblico a garanzia o con finanziamenti diretti per miliardi e miliardi di euro. E direi che come risultato di una stagione di gestione dell'articolo 47 della Costituzione, che prevede la tutela del risparmio in capo allo Stato, siamo messi veramente male. Allora, raccontiamo questa cosa di Monte dei Paschi, poi torniamo alle banche risolte in una fase precedente, perché questa è l'ultima novità che abbiamo proprio di questa mattina. Monte dei Paschi ha reso noto ieri sera tardi l'intenzione di promuovere, per conto del Ministero dell'Economia, che è entrato appunto nel capitale della banca, un'offerta pubblica volontaria di scambio e transazione rivolta ai titolari di azioni ordinarie della banca che erano derivati dalla conversione di un prestito obbligazionario subordinato da oltre 2 miliardi di euro che era rivolto ai piccoli risparmiatori. Esatto. No, quindi tanto per capire, questi risparmiatori avevano delle obbligazioni che poi per effetto dell'intervento dello Stato e del cosiddetto burden sharing sono diventate azioni, e adesso la banca ripropone che questi ridiventino obbligazioni. Esatto. Allora la questione è questa qua. Questa emissione da 2,16 miliardi di euro fu effettuata al pubblico retail, parliamo di decine di migliaia di piccoli risparmiatori, perché il taglio originario era di 1000 euro. In occasione dell'acquisizione dell'Antonveneta con la famigerata operazione. Furono rastrellati i risparmi di un sacco di clienti. Questo titolo subordinato era differente dai titoli rivolti agli operatori istituzionali, perché era meno garantito e quindi più rischioso. In occasione del cosiddetto salvataggio della banca, tutti i possessori del titolo si sono trovati al posto delle obbligazioni e delle azioni. Ora la banca propone di riconvertire queste azioni in altri tipi di obbligazioni, questa volta non più subordinate ma ordinarie, per un valore che però è inferiore di oltre il 20% rispetto al valore originario. Quindi una decurtazione comunque, e quindi questi risparmiatori quello che capisco io, sulla base delle informazioni che sono note fino adesso, abbiamo una decurtazione del valore di oltre un quinto del valore originario. Oltretutto però a questo si affianca un altro tema. È il tema di tutti i risparmiatori che invece negli anni avevano sottoscritto obbligazioni con tagli da istituzionali, cioè con tagli da 50.000 euro in su, e che invece sono rimasti completamente azzerati perché su quello intervento non è stato previsto nessun tipo di... Rimaniamo però a quei risparmiatori che saranno oggetto di questa proposta appunto di transazione. Intanto da quello che sappiamo fino a questo momento, perché chiaramente la banca precisa che l'offerta deve avere il via libera della Consob al prospetto informativo, presumibilmente la proposta di offerta volontaria di scambio partirà a fine ottobre e avrà una scadenza, e chi aderirà riceverà in cambio titoli di debito appunto senior Monte dei Paschi con scadenza 15 maggio 2018. Che è la stessa scadenza del bond originario. Ma no, stavo pensando, l'offerta secondo te doveva arrivare perché doveva arrivare, o perché ancora non si sa, queste persone hanno in mano azioni della banca che ancora non rientra in borsa, quindi presumibilmente anche per risolvere il problema di queste persone che vagano un po' nel buio e teoricamente fanno affidamento su questa circostanza sulla quale ancora c'è molto grigio? Sì, è un passaggio tecnico che stava già nel piano che era stato presentato alcuni mesi fa quando è intervenuto il Tesoro. La scadenza del 15 maggio 2018, cioè da qui a poco più di 8 mesi, è la stessa scadenza dei bond originari. A quel punto la banca dovrebbe rimborsare questi nuovi bond che saranno scambiati con le azioni al valore decurtato del 22%. Perché? Perché per supplire alle necessità di patrimonializzazione della banca, evidentemente anche questi risparmiatori saranno chiamati a un sacrificio, a una penalità che, ripeto, è all'incirca un quinto del valore originario del loro investimento. Io sinceramente ritengo che siamo in una situazione completamente ingestibile da un certo punto di vista, perché a questo punto abbiamo persone che hanno sottoscritto bond di banche che sono andate in risoluzione, che sono stati azzerati. Alcuni di questi hanno potuto ottenere il cosiddetto ristoro, altri no. Quello forfettario, quello che è stato gestito dal Fondo Interbancario Tutela dei Depositi. Alcuni possono andare invece all'arbitrato ANAC. Poi abbiamo i sottoscrittori del bond retail subordinato di MPS che vengono compensati soltanto per circa un 75-78% del loro valore, il resto lo perdono. Poi abbiamo i sottoscrittori di bond... È una banca che ancora teoricamente è in, come dire, può rientrare in borsa. Esatto, in bonus. Per cui è differente la sua situazione rispetto alle quattro completamente risolte. Sì, però abbiamo un ventaglio di soluzioni che sono state prospettate che poi prosegue con i bond subordinati delle Venete. Sono state seguite per ciascuno di questi casi, che sono almeno tre, strade diverse. È vero che ci sono delle tecnicalità giuridiche diverse nella situazione delle banche. Le due Venete sono andate in liquidazione, MPS in bonus, le quattro banche risolte il 22 novembre del 2015 sono andate in risoluzione, quindi tre situazioni diverse. Ma è anche vero che la tutela del risparmio prevista dall'articolo 47 della Costituzione è una sola, che parliamo di titoli che sono stati venduti, ad esempio nel caso di MPS nel 2008, quando ancora burden sharing, bail-in non erano assolutamente previsti da nessun tipo di legislazione, e quindi io ritengo che la tutela del risparmio avrebbe dovuto prevalere in questo caso. Evidentemente non è stato così. E invece a noi tocca fare un lavoro diverso, Nicola, prendere le normative, come dire, spiegare e tradurre ai nostri ascoltatori tutte le procedure di ristoro che sono state stabilite in questi anni, che in qualche maniera spero che possano alleviare i dolori che hanno patito queste persone in questi anni. Tra l'altro volevo tornare per un attimo a Letizia Giorgianni, perché poco fa insomma mi ha scritto: guarda che sulla vicenda dei Monte dei Paschi ho avuto anche altre notizie, noi non le possiamo confermare, Letizia, però che cosa avresti saputo di più a proposito di questa offerta pubblica di scambio e transazione rivolta ai titolari di azioni MPS? È proprio che MPS poi rimborserà a spese del Tesoro, perché ovviamente dopo la ricapitalizzazione precauzionale il bond con scadenza maggio 2018, e quindi anche ai dirigenti che li facevano vendere e anche ai dipendenti, insomma, guardando stamani sul sito. Cioè, io lo trovo assurdo, perché ancora qua nelle nostre quattro banche abbiamo persone che per superare il reddito di 35.000 euro all'anno non possono accedere al rimborso forfettario, e qui nel caso di Monte dei Paschi si rimborsano addirittura addirittura ai dirigenti. Dovremmo, certo, adesso lo proviamo a confermare. Confermo tutto questo. Che comunque risulta anche a me che una grossa quota di questi titoli era stata sottoscritta anche dal personale stesso di MPS. Esatto, per cui sai Letizia, magari il dipendente non è che abbia proprio una grande responsabilità nella distribuzione di questi prodotti che viene chiesta dalla banca per tutte le solite questioni. Si vedo Nicola, guarda, siamo su Facebook in diretta, non scuotere benissimo la testa adesso. Ammettiamo che anche loro siano delle vittime di queste gestioni alcuni dissennate, sì, ma non tutti. Non tutti. Sulla dirigenza certo ho altre perplessità. Detto questo, Letizia, prima di andare a Letizia Vescovini che ci sta aspettando, che quindi ci darà dei profili tecnici rispetto a questi meccanismi di ristoro, ce li ha spiegati già tante volte, ma sul tema invece delle quattro banche risolte abbiamo ancora qualche cosa da aggiungere tra tutta la platea di coloro che aderiscono al comitato vittime delle salvabanche. Insomma, molti sono stati ristorati, cioè mi viene, utilizziamo questo termine che veramente però non ci piace tanto, dal meccanismo forfettario appunto che si è chiuso nei scorsi mesi. Adesso che tipo di situazioni rimangono ancora aperte e che state seguendo? Brevissime per lo stato dell'arte. I rimborsi sono fermi perché le pratiche per l'ottenimento del rimborso, i pochi fortunati per carità che potevano accedervi, sono bloccate. Sembra che il fondo da luglio sia in pausa. Tra l'altro luglio coincide anche con l'apertura dell'arbitrato delle Venete, va bene, insomma, comunque devono essere rimborsati ancora 4.000 risparmiatori di quelli che per i paletti che aveva messo il governo potevano rientrare nel rimborso forfettario, e quindi anche questa è una situazione comunque che pone dei problemi. Devono ancora essere rimborsati, ma hanno comunque 4.000. Presentato tutte le domande secondo i tempi che si sono chiusi in primavera, se non mi ricordo male, sì, no? Sì, assolutamente, però praticamente siamo fermi con le liquidazioni, con i primi di dicembre, insomma, dello scorso anno. Poi, per quanto riguarda invece gli arbitrati, noi teniamo sempre a specificarlo ai nostri associati e anche le pratiche che stiamo seguendo un po' come associazione. Si tratta di una vera e propria difesa tecnica. Non basta, non è come dire sufficiente che il risparmiatore si limiti a compilare il famoso modulo, perché sarà una vera e propria causa e dovranno i risparmiatori documentare e testimoniare di essere stati vittime di truffe, e magari alcuni hanno firmato questo famoso bond 7 anni fa. Quindi è un'operazione assolutamente complicata, faccio per dire. Noi richiediamo alle banche, tramite insomma legali che ci seguono, anche i MiFID, non solo l'ultimo MiFID, ma anche i MiFID di anni prima, perché abbiamo visto con le pratiche che ci sono arrivate che molti MiFID sono stati modificati nel tempo, quindi magicamente poi quando si è trattato di far acquistare questa obbligazione da un MiFID con rischio bassissimo diventava il profilo di un altro. Le cosiddette riprofilature opportunistiche che sono state sanzionate ad esempio per la Vicenza e per Veneto Banca. Certo. Allora Letizia Vescovini, avvocato Vescovini, buongiorno, eccoci buongiorno a lei. Allora andiamo rimaniamo ad affrontare la questione dei risparmiatori che avevano in mano obbligazioni subordinate delle quattro banche risolte. Abbiamo detto che si è parzialmente inceppato, secondo quanto ci ha descritto Letizia Giorgiani, speriamo che sia momentaneo, che le liquidazioni riprendano, appunto il meccanismo per chi aveva diritto al rimborso forfettario. Per tutti gli altri invece c'era la possibilità di presentare domanda di arbitrato al fondo interbancario sempre. E in questo caso c'è un altro termine, quello dell'11 novembre per presentare domanda. Questa era la procedura collaterale, quella gestita dall'ANAC? Sì, sì. Dall'autorità anticorruzione, perché ecco, si erano inventati anche questa possibilità. Chi può fare allora questa domanda? Ricordiamolo, visto che c'è ancora del tempo, più di un mese, ricordiamo appunto chi può aderire a questa via. Allora, il requisito principale è che l'obbligazionista abbia comprato direttamente da una delle quattro banche risolte. E questo perché con l'istanza di indennizzo erano stati indicati dei requisiti molto più stringenti, che quindi avevano permesso solo ad una parte degli soggetti coinvolti nell'acquisto di obbligazioni subordinate di accedere al ristoro dell'80%. Infatti ricordiamo velocemente, appunto, c'era il limite dei 35.000 euro, di 100.000 euro, di aver acquistato appunto in un periodo precedente rispetto alla pubblicazione della normativa BRRD del 12 giugno. Quindi chi non aveva avuto la possibilità di partecipare all'indennizzo ora può partecipare all'arbitrato, sempre che abbia comprato in contropartita diretta, cioè direttamente dalla banca risolta. Come diceva Letizia Giorgianni, confermo anche io che da luglio c'è una sorta di limbo per le pratiche di rimborso forfettario. Speriamo che ricomincino nell'attività di liquidazione, anche perché insomma direi che in questo modo quantomeno si potrebbero delineare alcuni criteri per capire se una pratica verrà effettivamente rimborsata o meno, ed eventualmente ci sarebbe anche la possibilità, alla luce di questi criteri, di ritirare la domanda e presentare la domanda di arbitrato, ma temo che ormai i tempi sono talmente ridotti che questo tipo di meccanismo non sia possibile. Gli arbitrati sono sicuramente da non sottovalutare, una procedura che è stata creata per valutare se effettivamente nella vendita delle obbligazioni ci sono state delle scorrettezze, quindi delle violazioni. Tipo la riprofilatura MiFID. Sì, e confermo che appunto nelle pratiche che sto esaminando per predisporre gli arbitrati si assiste veramente ad una crescita della propensione al rischio e delle competenze del risparmiatore che nella sostanza non è reale. Certo. Quindi, insomma, negli ultimi 3 anni, 3 profilature in cui da prudente diventa invece una profilatura alta e quindi conforme al tipo di rischio che richiedeva un'obbligazione subordinata. Letizia, ci fermiamo un attimo perché devo raccontare cosa succede in borsa questa mattina, però una battuta con Nicola Borsi vorrei farla. Ma chi sono i samaritani interessati agli arbitrati? Sono persone che non hanno una preparazione giuridica, o almeno non hanno un curriculum giuridico, non esercitano una professione di avvocato, e delle quali abbiamo scritto su Plus perché contattano anche collettivamente coloro che hanno subito il danno dei subordinati, e soltanto per validare la produzione cartacea documentale necessaria per accedere all'arbitrato si fanno pagare delle spese fisse, ma non solo, poi chiedono anche delle percentuali variabili sul recupero eventuale delle somme che deriveranno dalla sono molto diffusi questi casi, vi risulta? Cioè, abbiamo avuto qualche segnalazione. No, perché tu c'hai scritto un signor pezzo su Plus 24. Sì, abbiamo scritto rubrica su Plus 24 per segnalare attenzione, perché questi professionisti o presunti tali di una professione che non esiste, cioè il mediatore civile di controversie legali, che non è una professione perché non è riconosciuta da nessuno, non hanno neanche un'assicurazione professionale, non sono iscritti a un albo, non hanno regole deontologiche. Se poi il risultato che promettono non viene conseguito, chi andranno a ringraziare i loro clienti? Oltre al danno, la beffa per molte persone, per cui state attenti anche da chi vi fate seguire quando dovete gestire appunto una vicenda già penalizzante, che è quella dell'essere rimasti vittime appunto di questi crack bancari. Chiaramente bisogna informarsi molto dettagliatamente sulle professionalità che hanno una elevata e corretta specializzazione per seguire questi casi. Un'ultima cosa volante per le due venete: la Consob, come abbiamo scritto su Plus della settimana scorsa, ha bloccato gli arbitrati. Volevo arrivarci dopo, infatti, perché sì. C'è il tema del difetto di presenza delle banche che sono andate in liquidazione 4. Adesso lo spieghiamo dopo la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Questa mattina abbiamo ripreso il punto della situazione per raccontare un po' in che situazione si trovano per l'appunto in questo momento tutti quei risparmiatori, migliaia e migliaia, rimasti coinvolti nelle dissennate gestioni bancarie degli ultimi anni. Abbiamo fatto un punto su Monte dei Paschi, abbiamo adesso un'ascoltatrice che ci vuole fare 2 domande su MPS, abbiamo fatto un punto veloce sulle 4 banche risolte, Banca Marche, Etruria, Carichieti e Careferrara. Ci rimane fuori adesso un piccolo punto della situazione per le due venete le vittime delle quali appunto potevano presentare entro l'estate una dichiarazione di credito nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, termini scaduti il 24 agosto. Sono tutte questioni giuridiche molto complesse, ma che purtroppo le vittime di queste situazioni naturalmente hanno dovuto imparare molto bene. E questa procedura hanno potuto presentarla sia i bondisti subordinati che gli azionisti azzerati, ma non coloro che avevano aderito la scorsa primavera alle due offerte pubbliche di transazione proposte appunto dalle due banche. Dopodiché un altro passaggio era che per i bondisti subordinati delle due venete, che erano stati azzerati, c'era anche il termine del 30 settembre per presentare domanda di ammissione alla procedura di indennizzo forfettario, e poi c'era anche la possibilità di chiedere la procedura arbitrale. Su questo punto, Nicola, ci eravamo soffermati prima della pausa. Esatto, da quello che risulta a noi, la procedura arbitrale all'arbitro Consob è ferma, nel senso che non vengono accettate procedure per difetto, diciamo, di rappresentanza dei due istituti in liquidazione coatta amministrativa. E questo che cosa significa in soldoni? Significa, Letizia, sostanzialmente che da lì non passi. Ecco, Letizia Vescovini vuole aggiungere qualcos'altro rispetto a questo punto? Andiamo direttamente alla sentenza della Cassazione sui mutui di questa mattina. Volevo fare velocemente una precisazione sulla dichiarazione di credito nella procedura di liquidazione coatta. Inizialmente si riteneva che quando è stata aperta la liquidazione coatta si fosse derogato ad una serie di incombenti, tra cui anche una pubblicazione di un decreto da parte del MEF che appunto formalmente desse avvio alla procedura di liquidazione. In realtà i termini che si chiamavano prima, quello del 24 di agosto, era riferito alla pubblicazione del decreto di apertura della liquidazione coatta. In realtà poi i commissari liquidatori, una volta che sono stati nominati, hanno precisato con un loro comunicato che invece sarebbe in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto per esteso, e quindi da lì dovrebbero decorrere i famosi termini per poter procedere all'insinuazione, al passivo. Quindi nelle prossime settimane, sembra forse a novembre, dovrebbe essere pubblicato questo decreto e da lì decorreranno i termini per poter dichiarare il proprio credito nella procedura di liquidazione. Quindi quarta. Diciamo che in agosto non è scaduto un bel niente in teoria. In realtà quello del 24 d'agosto non è un termine valido, che poi è stato che mantenuto proprio perché hanno precisato i commissari che non era stata una deroga ma un'attività che avrebbero fatto in un secondo tempo, certo, quando anche loro avrebbero avuto un po' più chiarezza sull'attività di liquidazione da svolgere. Ecco. Certo che io, così mettendomi dalla parte delle persone che per loro fortuna non sono interessate a queste vicende perché non ne sono vittime, provare a capire tutte le strade prese da ogni situazione, perché ogni situazione ha il suo caso. E oltretutto, anche se ci sono dei paletti, degli standard, ogni persona in realtà teoricamente potrebbe far valere i suoi diritti in relazione alla modalità con cui è entrato in possesso o ha sottoscritto questo investimento, perché poi l'ultima ratio secondo me spetta anche proprio all'analisi di questo aspetto, come e quando ti è stata fatta consulenza per sottoscrivere un investimento di questo tipo, che è tutta un'altra bella, diciamo, poi, tra partita di giro. Che su questo c'è anche una partita penale in corso, infatti, perché c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio per altri reati in realtà, ma che il fatto che ci siano state riprofilature opportunistiche da parte delle banche su decine e decine di migliaia di clienti per spingerli ad aderire agli aumenti di capitale o alla sottoscrizione di altri strumenti è un fatto che è stato già accertato, certo, da diverse autorità pubbliche. Per non dimenticarsi poi le situazioni in cui molte persone hanno sottoscritto azioni e obbligazioni di queste banche contestualmente all'erogazione di un mutuo o un prestito, che è anche quello pure un altro caso molto delicato su cui vale la pena che ogni persona faccia indagare sulla propria situazione. Detto questo, intanto saluto Anna Vizzari di Altro Consumo. Anna, ben ritrovata, buongiorno. Grazie, buongiorno. Stamattina l'abbiamo buttata in pasto ad un calderone che si è arricchito proprio nelle prime ore della giornata, perché abbiamo un po' rimodulato la puntata che avevamo pensato di fare con lei, che era in realtà nata così dall'esigenza di analizzare quello che sta succedendo nel mondo dei conti correnti, perché già da almeno un anno segnaliamo questa riesplosione dei costi sui conti ordinari. Adesso in realtà questo fenomeno sta riprendendo a riguardare anche i conti online. Prima di andare a questo, Vizzari, però, le faccio raccontare da Nicola Borzi e Letizia Vescovini che cosa ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza che è stata divulgata proprio questa mattina, che riguarda i tassi di mora che renderebbero usurari i mutui. Nicola, inizi tu, poi faccio tradurre in giuridichese all'avvocato Vescovini. La dico per come l'ho capita, perché in realtà capire le sentenze della Cassazione non è semplicissimo. Ma il tema è capire se è una buona notizia per noi e per chi ha un mutuo o meno. Potrebbe essere una buona notizia per chi ha un mutuo, bisogna vedere se ho capito correttamente come dire l'estratto della sentenza che ho potuto leggere. Sostanzialmente, nel caso di una somma tra l'interesse ordinario e l'interesse di mora, se il tasso finale dato dalla somma di questi due interessi supera la soglia usuraria, il contratto diventa gratuito. E qui, avvocato Vescovini, mi faccio capire, per me che pago i tassi di interesse sul mutuo, su che cosa cambia? Intanto da che cosa origina anche questa sentenza? Per ricordiamo che dietro le pronunce della Cassazione o di qualunque altro organo si parte sempre comunque da una fattispecie e da un caso concreto, no? Sì, diciamo che è un argomento molto dibattuto su cosa sia o meno rilevante ai fini dell'usura, nel senso che ogni volta che si chiede un finanziamento o che si apre comunque un rapporto anche di conto corrente con la banca, ci sono costi e interessi che possono diventare rilevanti ai fini dell'usura. Sino ad ora si è sempre fatto riferimento ai cosiddetti interessi corrispettivi per quanto riguarda le operazioni di finanziamento, quindi quello che in realtà è l'interesse che dobbiamo pagare per il normale utilizzo del finanziamento. Di recente si sta muovendo questa impostazione che invece ritiene rilevante ai fini dell'usura ogni costo finalizzato all'erogazione del credito e quindi nello specifico anche l'interesse di mora. L'interesse di mora che si rappresenta quando appunto la rata del mutuo non viene pagata nei termini previsti e che secondo questa ordinanza della Cassazione sarebbe rilevante anche nel solo momento della pattuizione, quindi se nel nostro contratto di mutuo, facendolo esaminare, si rinviene un tasso di mora che risulta superiore al tasso soglia usura, il mutuo diventa gratuito, significa però che il capitale va restituito. Certo, ecco, ma in quale circostanza io debbo, come sottoscrittrice di un mutuo, andare a verificare il mio tasso di mora, Vescovini? Ma innanzitutto si deve verificare al momento della sottoscrizione, perché già da lì si può capire se il mutuo è conveniente. A parte il tasso di mora, è bene anche valutare il tasso corrispettivo. E normalmente nel documento di sintesi che viene allegato al mutuo si riesce a capire un po' meglio quali sono le condizioni effettivamente applicate al rapporto. Poi se nascono delle patologie, quindi insomma non si riesce a pagare in modo corretto il mutuo, a quel punto conviene far verificare, perché magari utilizzando questo strumento si può ottenere un aiuto, ecco, si può cercare di rimodulare con la banca il mutuo o nei casi peggiori in cui la banca non voglia venirci incontro eventualmente aprire un contenzioso. Mamma mia, quant'è? Diciamo anche una cosa che va spiegata, che il tasso, la soglia usuraria non è una soglia usuraria fissa, ma viene ricalcolata periodicamente dalla Banca d'Italia, quindi varia. E bisognerà anche cercare di capire se la soglia usuraria da considerare è quella valida al momento della sottoscrizione del contratto o quella al momento in cui scatta la mora eventualmente. Quindi la vedo un po' complicata come vicenda. Esatto, allora vi lascio analizzare questa situazione in via privata, poi quando saremo in grado di ritradurla ancora più dettagliatamente con degli esempi pratici per i nostri ascoltatori ci torneremo sicuramente, perché molti di noi pagano il mutuo e quindi siamo molto interessati anche a quei frangenti in cui purtroppo incappiamo magari nella mora. Detto questo, ci fermiamo, c'è il traffico, poi andiamo sulla stangata sui conti correnti. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Due di denari. Prima dei conti correnti, a cui purtroppo possiamo dedicare pochissimi minuti, ma è talmente popolare questo argomento che ci torniamo sicuramente presto. Avevamo in sospeso la domanda di Armando dalla provincia di Parma, ci fa tornare su Monte dei Paschi, velocemente ci torniamo. Armando, benvenuto, velocissimo se ce la fa, la ringrazio. Buongiorno, buongiorno. La mia era una semplice domanda. Avendo delle azioni di MPS, volevo sapere se le azioni sono state perse o c'è una speranza di recuperare. Lei era un azionista, non sono azioni derivanti dalla conversione del vecchio prestito obbligazionario. Mi pare che anche in questo caso, Nicola, aspettiamo un via libera della Consob per una ripresa delle rinegoziazioni. Bisogna aspettare a breve. Il prospetto. Però c'è stato un effetto di diluizione, cioè il valore delle azioni iniziali è calato in maniera verticale. Adesso non so quantificare esattamente, ma con una percentuale a due cifre. Lui ha questo portafoglio congelato, per cui anche se il valore magari sarà molto più basso rispetto a quello molto, di carico, molto più basso. Però lui interessa capire quando rientreranno in negoziazione. Dobbiamo attendere il prospetto che sarà, deve essere ancora approvato dalla Consob. Armando, allora, stangata d'autunno sui conti correnti. Dal 1 ottobre alcune banche, a quanto pare, hanno ripreso ad introdurre nuove spese per il cliente, alzando i costi di gestione, quelli per le operazioni e prelievi allo sportello. Questo è uno studio che è stato diffuso nei giorni scorsi da un'agenzia che a sua volta aveva diramato una elaborazione di uno studio tributario che si chiama Cataldi, per cui non abbiamo un monitoraggio fatto da altre, questa vi pertanto per specificarvi la fonte, e a quanto pare appunto questa rilevazione fa emergere come gli aumenti di tutte le operazioni appunto allo sportello o meno siano abbastanza ricorrenti e riguarderebbero adesso anche il mondo dei conti correnti online, che fino praticamente a ieri erano stati in assoluto i più vantaggiosi perché azzerano quasi tutte le operazioni che tradizionalmente vengono fatte allo sportello bancario invece pagando. Anna Vizzari, Altro Consumo, voi che di monitoraggi e rilevazioni ne fate tantissimi, vi risulta? Allora, sicuramente qualcosa sì, ma diciamo che non è una novità, nel senso che questo è il periodo che tradizionalmente è interessato da questi aumenti nel corso dell'anno, e poi devo dire che quest'anno di aumenti anche in altri periodi ce ne sono stati già anche da grossi gruppi bancari. Cosa hanno fatto le banche online? Sostanzialmente hanno reso mediamente più oneroso fare determinate operazioni negli sportelli fisici quando è permesso. Quindi sostanzialmente troviamo tipo bonifici fatti allo sportello ma anche il prelievo ATM in alcuni casi è aumentato sostanzialmente perché appunto vogliono premiare di più l'operatività online. Mentre, allora, questo sì per quanto riguarda le ultime stangate, gli ultimi aumenti, però in senso generale devo dire che nel corso del tempo effettivamente le banche hanno introdotto anche delle nuove commissioni che spesso passano un po' sotto banco, nel senso che non ci si fa caso. Per esempio, la maggior parte degli istituti bancari ha introdotto una commissione per l'addebito diretto, il cosiddetto addebito SEPA, che sostanzialmente prima non c'era, o comunque se c'era limitato veramente a pochissimi casi. Che cos'è questo addebito SEPA? E l'addebito se SEPA ci arriva sarebbe l'estratto conto, lo leggiamo, lo sappiamo. Per capirci, ci sono le domiciliazioni bancarie che vengono pagate con addebito SEPA, ma quelle fanno parte di una convenzione tra la banca e le aziende erogatrici, quindi nella maggior parte dei casi sono gratuite, ma ci sono anche degli addebiti SEPA che per esempio possono arrivare quando abbiamo una carta di credito con un emittente diverso dalla banca che ci fa pagare l'estratto conto. In quel caso ci sono moltissime banche che fanno pagare l'operazione, si arriva anche ad un euro d'operazione. È chiaro che appunto che se abbiamo un pagamento ogni mese l'estratto conto e la carta di credito, questo certo Incide anche sul costo del conto corrente. Anna Vizzari, allora arriva l'estratto conto e ci accorgiamo che la banca ha introdotto appunto delle variazioni unilaterali del contratto, dei costi appunto e degli oneri che noi paghiamo su questo, sulla gestione del nostro conto corrente. Questo è il fenomeno del cosiddetto ius variandi. Come ci possiamo difendere? Perché abbiamo raccontato più volte anche con lei che da giugno in realtà ci sarebbe una possibilità di cambiare banca se siamo insoddisfatti della nostra precedente, una portabilità che sarebbe più veloce. Esatto, allora ricordiamo che la banca deve comunque comunicarci l'aumento con un preavviso di almeno 60 giorni, in quei 60 giorni possiamo cambiare le vecchie condizioni e possiamo utilizzare la nuova legge, che è quella della portabilità veloce del conto corrente, e per cui tutto dovrebbe concludersi in 12 giorni lavorativi dal momento in cui ci richiamo nella nuova banca e firmiamo un modulo di autorizzazione in cui autorizziamo la banca a chiedere alla vecchia banca il trasferimento delle domiciliazioni, degli addebiti diretti, dei bonifici in entrata ed eventualmente anche della giacenza. Certo. Questo deve avvenire, come ho detto, in 12 giorni lavorativi. Se non avviene, abbiamo anche diritto a un indennizzo che è previsto per legge ed è stato introdotto nel testo unico bancario, quindi c'è una quota fissa di 40 euro più una quota variabile che è determinata moltiplicando la giacenza del conto per i giorni di ritardo, per il tasso massimo ai fini dell'usura di cui parlavamo prima e che per esempio oggi è al 24,15%, e si chiede questo indennizzo alla vecchia banca con un reclamo per iscritto. La vecchia banca deve rispondere entro 30 giorni, se non lo fa si può fare ricorso, certo, all'arbitro bancario e finanziario. Questo sicuramente, che è oberato di ricorsi in questo, bravissima, sicuramente sì, ma anche sugli aumenti ingiustificati dei conti correnti è oberata di ricorsi, perché per esempio ricordiamo che alcune banche nel corso del 2016 avevano introdotto degli una tantum per giustificare il loro contributo al fondo, infatti, di risoluzione. Glielo volevo far ricordare a Nicola Borzi, perché loro da più di un anno lo hanno segnalato, avevano proprio notato, no, questa siamo tendenza, esatto, la scorsa estate per finanziare la partenza del fondo Atlante e quant'altro, sì. Benissimo, e l'arbitro comunque sta proprio dando delle decisioni favorevoli ai consumatori che hanno fatto ricorso, e quindi ha chiesto alle banche di restituire questo una tantum. Quindi in effetti i ricorsi sono destinati ad aumentare. È vero che i collegi sono aumentati, da 3 sono passati a 7 nell'ultimo anno, i collegi territoriali dell'arbitro bancario, speriamo insomma che riescano a sveltire un po' l'arrivo delle decisioni. Uh-huh. Quindi sostanzialmente questa nuova legge ci dà la possibilità di cambiare operatore alla ricerca di nuove condizioni sul mercato. Benissimo. L'importante è confrontare, quindi basarsi su quanto paghiamo oggi guardando la documentazione che ci arriva dalla banca e verificando le condizioni di mercato. Grazie ad Anna Vizzeri, torneremo al più presto su questo tema che stamattina abbiamo dovuto stringere molto velocemente. Ti preannuncio, Nicola, che ci sono molte domande di ascoltatori sul tema, stanno arrivando però sul finale dei tassi usurari sui mutui. In 10 secondi cosa fate a Plus 24 sabato? Storia di copertina? Su Plus 24 di domani la storia di copertina riguarda i titoli di Stato. Analizziamo come stanno andando, quali sono le eventuali alternative per chi volesse disinvestire in caso di plusvalenza e come utilizzare altri strumenti sempre all'interno del settore dei titoli di Stato per fare un meccanismo di arbitraggio fiscale, cioè portare delle minusvalenze in compensazione delle plusvalenze realizzate in maniera da pagare meno tasse. Grazie a Nicola Borzi, grazie per a voi, essere stato con noi, a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè in assistenza tecnica, perché non li ringrazio mai. Mauro torna lunedì, ti aspettiamo.